mamma base, sta capane. Ai, cane! Sta capa mamma base, oi ne. Ma già curà, mi ezza sta capa una cosa pesante, pesante ma sento. Mi fermo qua, mi fermo là, e a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo i, a gente dice fuit, fuit, il viso del folle. L'ho fatta per te, il grugno del pazzo, lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi, a faccio pazza, l'ho fatta per te. Con mamma pesa sta capane, con mamma pesa sta capane, ai sere, ai sere, sta capa pesa in me. Ma già curà, oggi il dottore mi ha detto, mio caro, voi state inguaiato. Guardate qua, toccate qua, e a reta capa una specie una palla di tennis ha trovato. E to stai, ma come tosto sta palla di tennis, il viso del folle. L'ho fatta per te, a capa capalla, a tenga per te. Ho venduto 3 quadri, uno schizzo, 4 piume di struzzo, un arazzo, a faccia rupazza, l'ho fatta per te. Con mamma pesa sta capane, con mamma pesa sta capane, aizza, aizza, sta capa ma pesa in lei. Ma già curà, io mi devo curare, e che mi hai fatto tu donna perversa, bugiarda e spergiura? Che debba fa, che pozza fa, se mi suicidio vedendomi morto mi metto paura. Ma già sparà, no, non mi sparà, a gente dice che è meglio accampare, il viso del folle l'ho fatta per te, allora mo campo che è meglio per me. Mamma magna una sarda e una pizza, una scamorza, una capa merluzza, o pranzo o pazzo, l'ho fatta per te. Con mamma pesa sta capane, con mamma pesa sta capane, aizza, aizza, sta capa ma pesa in me. Con mamma pesa sta capane, con mamma pesa sta capane, aizza, aizza, sta capa ma pesa in me.